Sura 91. Ash-Shams. Il sole. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per il sole e il suo fulgore, per la luna quando lo segue, per il giorno quando rischiara la terra, per la notte quando la copre, per il cielo e ciò che lo ha edificato, per la terra e ciò che l'ha distesa, per l'anima e ciò che l'ha formata armoniosamente, ispirandole in pietà e devozione. Ha successo in vero chi la purifica, è perduto chi la corrompe. I Thamud per arroganza tacciarono di menzogna quando si alzò il più miserabile di loro. Il messaggero di Allah aveva detto loro: «Questa è la cammella di Allah, abbia il suo turno per bere». Lo tacciarono d'impostura e le tagliarono i garretti. Gli annientò il loro Signore per il loro peccato, senza temere di ciò alcuna conseguenza.